è briciola? Briciolina? Ebbè briciola? Attento, mutanda! Mutandino, mutandino! Luca, ci sei? Attento Luca, ci sei in ascolto? Luca, ci sei? Ebbè, biondo! Ebbè, Brigido! Uè, fiore! Fiorellino! E dove sei, Natalino? Cosa stai facendo? E seduto sono, amico, in auge. E lei? Sì, io stavo sistemando un po' di cose in casa. Adesso ho fatto, dai, ci avvedessi anche l'uno. Ah, come sempre, non c'è mai nessuno. Sempre soliti. Sì, infatti sto pensando di smontarne tutte le antenne e vaffanguarla. Avevamo gira gira ne smonto tutto perché tanto non ne vale più la pena, Manuel. Ehi, vabbè, adesso ce l'ha cosa caiva, smonta, fa. Quando non vuoi entrare non entra, cosa devi fare? Io cosa dova, va. Sì, santo, mi ne è passata la gana, Manuel. Non è più come prima, Natalino. Il baracchino non è più come prima. Adesso bisogna svegliarti e casa nel burro ha un importante burro. Quando sei chi mi fa vedere Santa Madre, ha il burro da rompere i cattoli. Senza contare quello, infatti. Bah, oh yeah. Ah, io ya, va, fra un poco iniziamo a fare qualcosa per il pranzo. Oggi una giornata è costerà, mi mangio due scatolette di tonno con fagioli, mezzo litro di rullo, la bomba si gonfo. Pure lì c'ha ragione. E tanti indiani. Dove vai, Natalina? Non c'è un'anima, non c'è un'anima fuori. Io adesso non posso neanche girare in macchina, devo andare da cosa domani, quello auto di camion a prendere le ganasce, le freni, che si intende di allo quasi. Cavolo. Non le ganasce, le pastiglie, non le ganasce, le pastiglie di freni devo cambiare. E quelle già sono facili. Ehi, l'ho detto a Franca, ha detto già me le cambia lui. E cazzo, quelle, cazzo, non ci vuole molto. Cosa costa? Una ventina di euro, Natali. Non lo so, a dirti la verità. Però già è facile cambiarle quelli, non c'è bisogno manco di spurgare, torni indietro il pistone e ce le metti. Boh, non ho mai già mangiato queste cose. Se mi dici di fare impasto, cemento, allora no. Un altro discorso. Per quel lavoro non l'ho mai fatto. Io una volta me l'ho cambiata la macchina mia. È facile, capito? Torni indietro il pistoncino dalla pinza, ci metti le pastiglie a buio, andufreni e comprime, no? Vabbè, dai, io vado domani a comprarlo, la prendo lì da fare, mi ha detto di prenderle da fare, che costano poco. Infatti. Ma buona tardi, dai, già ci sentiamo quasi mai stasera. Andrà bene Mela. Ciao Manuele, alle prossime. Volevo andare a Platamone a pigliarti il caffè tutti insieme, invece nessuno mi ha chiamato, nessuno. Vabbè, ci sentiamo stasera. Ehi, ciao Natale, buon pranzo. Alle 10 c'è nessuno in ascolto? Canale 10 c'è nessuno? CQ10. Canale 10 c'è nessuno? CQ10. C'è nessuno sul canale 10? CQ10. Andiamo, su. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. Hola, hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. Hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, avanti. C'è qualcuno ancora vivo dalle Gossoviglie? Beh, io ho immaginato che tu fossi in giro oggi con questo tempo, ho pensato che te ne fossi andato in giro, Marco. Ciao già, no, ieri, oggi riposo perché sono andato a letto tardissimo e macello, guarda, mi sto dedicando un po' alla casa. Tanto è come una domenica oggi. No, io ieri avevo molta gente a casa, mi sono stancato da morire. Sono stancato cucinando, facendo. Poi, per carità, prima sono andato a fare tutta la spesa l'altro giorno. Poi ieri ho preparato tanti pasti, ho cucinato tutta la roba, gamberoni, questo e quell'altro. Poi ho preparato gli antipasti, insomma ho fatto tutto da solo. Sì, lo stesso, io, vabbè, ieri tutto il giorno fuori mi sono stancato abbastanza, dai. Ho provato anche quella roba lì, però la portata è limitata, devi correggere troppo, capito, per andare a 20 metri tipo. E quindi va bene entro i 10, dai. Cioè va oltre, però non ne vale la pena, cappa. No, io adesso in questo momento mi sto rilassando, però stavo facendo fino a poco fa a casa e mi sono trovato solo oggi e ho approfittato un po' a farmi le pulizie e cose. E io pure, sto lavando roba, stendendo roba. Ma tu poco fa stai facendo 1, 2, 3, 4, 5, lo sentivo dall'altra stanza ma non ero sicuro di chi fosse. Comunque radio non ho sentito ancora un'anima, Sì, ero io, stavo provando le regolazioni del microfono. Si stanno facendo anche prima radioamatori, magari gente magari era in giro, adesso sta rientrando a casa. O si sono risvegliati dalla penichella. Cap. Mi sa che mi faccio un bel caffè, un caffeinato, per avere un po' di sprint. Cos'hai, addormentato? No, addormentato no, però sai quando stai molto seduto, sdraiato, ci viene il torpore agli arti, alle gambe, alle braccia, no? Mi vorrei un po' una botta di caffè o di bamba, è uguale. No, io non ero, vabbè, stavo cantando, va. E dopo che ho finito mi sono messo a fare qualche canzoncina così. E poi adesso sono libero. Adesso mi rilasso un po' accendo la radio, ma non avevo molto. Pensavo non ci fosse nessuno, dai. Non ero molto entusiasta di entrare perché so sempre che non c'è gente quando vado a entrare. Comunque non sento, ho sentito chiamate strane, ma erano in FM, era propagazione, magari dalla Russia, roba del genere, dall'est comunque. KK, anche per ascoltare qualcosa era me, o già, non tanto per parlare al baracchino, per ascoltare anche. Volevo quasi attaccare il ricevitore 80 HF, dai, per ascoltare qualcosa lì. Non sto più attaccando, non mi entusiasma più Marco, boh, non lo so, prima ero più preso dal fatto dell'ascolto, ascoltavo molto di più, ma no, adesso non c'è più niente che mi intriga. E sai così, quando uno si toglie tutti i gusti come noi, se provi una cosa, poi te ne stufi, in tutti i campi, alla fine non ti attira più, non ti dà quella sensazione iniziale. Sì, è vero, perché poi a furia di ascoltare ti annui, perché poi bene o male parlano come parliamo qua, mi non è che... Prima c'era qualche cosa che ti intrigava di più, adesso non c'è più nulla. Bene, comunque stava bene ieri, alla fine lo sai che all'ultimo istante abbiamo deciso di andare in campagna, che allora eravamo d'accordo per andare in terrazza, il problema è che cioè portare tutto da giù a su dovevi fare questa rampa infinita di scale per andare in terrazza, piatti, tutto, poi bisognava riportare giù per lavarli, insomma non veniva bene, alla fine era più come dire una tribolazione che altro. Allora abbiamo detto io in campagna, abbiamo deciso negli ultimi 10 minuti proprio, se no lui stava andando qua vicino a 50 metri e poi vabbè, e siamo andati in campagna, bello anche, vabbè, per il tempo bello, l'erba, insomma si stava molto molto bene, non c'era vento e non c'era nemmeno troppo caldo per fortuna. Avete arrostito fuori? Sì, praticamente abbiamo mangiato anziché dentro in veranda, no? E arrostito col barbecue, carni assortite, poi vabbè, tagliatelle alla bolognese, credo, sì, tagliatelle erano, sì. Con ragù? Sì, perché o era, volete, o pasta al forno, o ravioli come prima, o tagliatelle. Poi io, vabbè, ho mangiato poco e alla fine non ho lo stomaco piccolo già, più di tanto non mi ci entra, quindi, e poi guarda, per stare male, per stare pieno, sei con stai tutta la sera con atto che hai mangiato troppo, no, meglio di no. Ma ringrazio proprio Silvio, Marasucchi, da voi vi lamentite, siete grassi. Tu mudo, sei andato a Russi Savani. Buonasera, buonasera a tutti e due, ciao Gianni, ciao Marco, vai già. Ciao Manuel. Ebbene, mangiato hai oggi? Ma oggi sinceramente ho mangiato leggerino, ieri sì, ho fatto una bella rostita con amici e parenti. Ma non era oggi che dovevo andare a Canica? No, ieri sono andato. Ah, kappa. Vabbè dai, e adesso mi, da domani, Ramadan. Bisogna troppa carne, lancio la carne, penso anche in fronte di carne, massa carne, massa. Vai Marco lì. Ciao Manuel. Sì, ieri diciamo io come sempre ho mangiato il giusto, cioè il giusto da un po' saziarsi ma non da mangiare a crepatura, perché a me non piace, poi ti senti quel senso di gonfiore, stai appesantito tutta la sera, capito? No, non mi piace, ho mangiato il giusto, come sempre alla fine. D'altronde io ho lo stomaco piccolo, devo mangiare spesso, cioè poco ma più spesso, capito? Anche per godersi la serata. Vabbè, comunque, hai sentito? Sì, praticamente all'ultimo momento abbiamo deciso di andare in campagna perché era più bello e perché a portare la roba in terrazza dovevi fare più fatica tra pentole, piatti, tutto quanto, era una rottura di scatole, almeno lì sei in piano e siamo stati anche meglio, K. E avete fatto bene. Tu Marco lì sei come i gatti, mangi a bicuitelli. No, io ieri vabbè ho mangiato un bel po', perché solo di antipasti viene la grembadura. Avevo fatto quelle olive, quelle nere, condite con l'aglio prezzemolo, peperoncino, erano un bel buone, mi sono piaciute molto. Poi c'era prosciutto, speck, salame, salsiccia, formaggio di quello dei paesi, di quello buono, fiore sardo, un bel buono. E poi ho fatto tutto a base di pesce, gamberoni, orate di quelle grandi, di quelle pescate, però non di quelle d'allevamento. Ho fatto 5 orate di quelle grandi. E insomma, già ce n'era di roba da mangiare. Poi alla fine la colomba al cioccolato e ci siamo crepati proprio. Ho tolto il bip perché dava fastidio anche a me, perché lo sento, c'ho il monitor. Guarda, io ho detto a mia zia, guarda, non fare antipasti, non fare troppa roba, perché alla fine, sai cosa succedeva? Come succedeva qua? Si si crepavano di antipasti, cioè si ingozzavano in formaggio, salsiccia, tutte quelle cose lì, e poi arrivava il primo e nessuno quasi aveva più voglia di mangiare. Ho detto, fai roba semplice e poca roba anche, che non dobbiamo, no, non dobbiamo eccedere nel cibo. Una cosa semplice, ho detto, no, a me non me ne frega di avere né caviale né champagne, cose semplici ma buone, di cose di tutti i giorni. Sì, perché poi in effetti questo consumismo fa più male che bene, fa male alla salute, fa male alla tasca, perché spendi un sacco di soldi per una giornata. E vabbè, una volta ne fate si buffa, avanti Manuè. Ti volevo chiedere, ma mi ascolti, ma sei ancora M questa sera? No, no, io ti ascolto benissimo, Manuè, anche forte ti ascolto. Va benissimo, dai, da Marco penso di sì, mi ascolterà un pochettino in mezzo al 4M. No Manuè, non credere, il segnale è 7, però il 4M è 5, è molto più basso il 4M, quindi arrivi bene. L'importante è che arriva la radio, il segnale non mi interessa niente, l'importante è sentirsi, vai già. Ehi dai, hai fatto un bel abbinamento, non so che tipo di radio stai usando, però è una radio sicuramente che pompa, perché è così forte non è possibile che arrivi con un baracchinetto come hai detto tu. Un baracchinetto è il portatile sto usando, con il microfono esterno. Ma che portatile è? Sala 50S, te l'ho detto, quello verdolino. Se non è attacco quello lì per il microfono, oggi di Zenni. L'attacco con i due sminuti, cazzo non ne ha. Mica ce l'ho avuto io quel portatile lì e non ne ha gli attacchi di microfono. L'attacco, tranquillo, a fianco ce l'ha, dove c'è il coso del caricabatterie, a 12. Ma. Sara. No, a me sembra un apparato più performante quello, almeno dalla modulazione sembra molto più performante, vero Manuè? Entendi la mascolina qui. Sì, ma io sono dall'altro giorno che te l'ho detto, a me non mi butti. Sto usando una radio da base che ha 30 anni Marco lì, è un presidente questo qua, con lo smette davanti al centro. Lo Zaccari è quello lì che va da Tonino. Quello lì, e poi ne ho un altro uguale, sempre uguale a quello lì della Washington però è uguale, solo che l'altro ha le bande laterali. E io lo stesso sono con un presidente però moderno, di quelli 40 canali MFM omologati, però c'ha qualche opzioncina in più che non è male, dai. C'ha l'autoascolto, il bip escludibile, il rosmetro incorporato, vabbè, fesserie, il Vox c'ha, che non uso mai. Oh, quello non li usi mai. Cos'è già? Cosa stavi dicendo? Oh, non me ne ricordo più. Comunque tranquillo che il 50S l'ho avuto anche io, non è di attaccare i microfoni, ti sei ricordato male. Ce n'era uno solo che aveva l'attacco del microfono, di qua, a quanto mi ricordi io, vero Marco? Quello che avevamo noi. Quello presso fuso in alluminio, quello era un signor portatile, purtroppo non per colpa mia è stato bruciato, quella è stata un'inchiappettata bella e buona. Comunque tornando alla storia delle antipasti, allora quando mamma faceva qua i Natali, Capodanni, no? Che cucinava lei, apparecchiava lei, insomma tutto bello con le tovaglie natalizie, no? Faceva l'errore di fare sempre, di mettere troppi antipasti. Cosa succede? Arrivavano, si ingozzavano lo stesso di antipasti, come ti ho detto prima, e poi alla fine non mangiavano, a malapena il primo e il secondo non lo mangiavano, e la roba rischiavano quasi di buttarcela. Allora un giorno un Natale ho detto, Masco, fai una cosa, non ne fare antipasti, non ne fare, dai solo un aperitivo che quello ti mette più fame e basta. Infatti poi la roba la mangiavano, capito? Ma la gente magari li vuole gli antipasti, Marco, se c'è gente a casa, io li ho fatti perché avevo un bel po' di persone, avevo 7 persone a casa, quindi immaginati tu se non dovevo fare gli antipasti. E quello, poi i ravioli, poi questo, poi l'altro, poi le orate, i gamberoni, il ghido, il ghidasso, e c'è partito tutto. E antipasti è rimasto solo il salame, lo specchio e il prosciutto, è sparito tutto, le olive sono sparite. buone le olive, mamma mia che buone. E il formaggio, io sono un formaggio dipendente, tutti i tipi di formaggi, e non ne dovrei mangiare, lo sai, per via dei calcoli. Però d'altronde fatemi morire contento, no? Vai Emanuele. Guarda, io il formaggio ne mangio tutti i tipi di formaggio, dal formaggio marcio al formaggio quello normale, tutto, tutto i tipi di formaggio mangio. Lo so io, lo stesso io, e proprio mi piace tutti, anche il latte, anche la mattina caffè e latte, roba del genere, anche latte bianco bevevo, e tutti i derivati del formaggio. Però vedi, quello che piace, caso strano, è proprio quello che fa male nel mio caso. E i dolci lo stesso, perché la glicemia, vabbè, è normale, però salirà piano piano, sta salendo col corso degli anni. E Gianni lo stesso, io a Gianni piacciono i dolci, e però purtroppo si deve un po' limitare o correggere con l'insulina, vai già. Sì, vabbè, ieri c'era la colomba al cioccolato con la crema dentro, non potevo perdermela, Marco, un pezzo l'ho assaggiato, dai. E non ce l'avevo manco alta, quando ho finito di mangiare non ce l'avevo alta, perché ho mangiato pesce, non ho mangiato carne, quindi non mi è salita. Ce l'avevo 162 mi pare, una cosa del genere, non era altissimo. Via. Vabbè, poi, cioè, vabbè, comunque per i cibi in generale tutto quello che piace fa male, sembra una punizione divina davvero, boh, vabbè. Sì, in effetti è così, Marco, in effetti è così. Tutto ciò che ti piace fa male, perché la roba più condita, quella che ti piace. Aggiungato quelle olive nere con l'aglio prezzemolo e il peperoncino, l'ho lasciate 2 o 3 giorni a macerare, ma sai quante erano buone, sono sparite, ne ho fatto un bel pomme e sono sparite. Via. Poi mi piacciono anche quelle olivette ripiene, dove c'è o il peperoncino, o c'è o il peperone, o la pasta d'acciughe, quella roba lì. No, quelle le ho mangiate di meno, non le mangio quasi mai, però quella che faccio io mi piacciono, dai, così. Allora, prendi le olive nere in barattolo e poi le condisci, le fai così, se escono un bel buono. Avanti, Emanuele. Riprendete voi che rimango in ascolto. Comunque adesso fatta e abbiamo già mangiato, adesso bisogna fare Ramadan. Dobbiamo fare il digiuno adesso per alcuni giorni. Ma per come mangiare, io ho mangiato come una giornata normale, però pesce niente, cioè ho detto o fate carne o fate pesce, cioè per mischiare a me non piace passare dalla carne al pesce e viceversa. Allora carni di vario tipo, pollo, maiale, poi l'altro cos'era? Forse agnello, boh, non mi ricordo. Oh, io ho fatto pesce. Mi sta dando un po' fastidio mangiare l'agnello adesso, lo sai. Quando penso che ammazzano tutti questi agnellini, i gularini, non hanno vita questi animali, come nascono li ammazza? Quello certo, io non avrei proprio coraggio, forse piuttosto morire di fame. So che quando l'agnello è già pronto, vedi, non è che mi faccio problemi. Però ucciderlo, no, mi fa strano, è come ammazzare un bambino, l'agnello praticamente è un bambino della pecora. Vabbè, a me prima no, ma adesso mi sta facendo un po' di senso, un po' di senso, come vedo su internet tutte queste cose, ho visto macellarli, come li trattano, come li fanno, si appendevano sopra, hai visto come mettono le cartoline, che c'è quella girandola che tu giri per vedere le cartoline, però in grande, li appendono per le zampe, poi a uno, li passano, li mettono il coltello, e cominciano a scuoiarli ancora vivi, bovarati. Vabbè, quella è una carognata. Di solito a livello industriale usano il pungolo per il bestiame, il pungolo o quantomeno una specie di scossa elettrica che gli manda proprio il cervello in blackout. Già l'idea comunque mi fa impressione. Insomma, poi vabbè, hai visto nella sarda, appena il maiale cava in giù, su, gli fanno un buco all'altezza dell'arteria o tagliano direttamente la gola, vedi questo fiume di sangue che scende, mamma mia. Al maiale sì, la danno la scossa, lo stordiscono con la scossa e poi dentro al coltello, se lo mettono in mezzo alle gambe, sta dentro al coltello in gola. No, di bucare il cuore proprio, capito? Da lì praticamente di bucare il cuore, arriva al cuore il coltello. Al cuore, poi aspetta, avevo visto roba tipo della Sardegna, ma io vedevo che tagliavano la gola o bucavano l'arteria principale. E non è un bel vedere comunque, quello si mette a urlare con lo stesso. Quei pastorati possono. No, ma fa senso, non uccidere un altro essere vivente mi fa un po' ribrezzo, a meno che non lo fai per difesa proprio come ultima risorsa già, però no, io non potrei mai fare il cacciatore, per esempio. Come quello, ho visto quello che l'orso l'ha ammazzato, è andato a fare trekking e l'hanno trovato morto, probabilmente è azzannato da un orso. Ma è morto davvero in conseguenza dell'attacco dell'orso, oppure l'orso l'ha trovato, che ne so, morto di infarto e poi ha provato a mangiucchiarselo, non so. Comunque chi fa trekking in certe zone dovrebbe portarsi un qualcosa, qualsiasi cosa, anche uno spray contro gli animali, che di solito sono più forti. Tentare il tutto per tutto, glielo spruzzi gli occhi, quando quella non vede, vabbè che se ti aggranfa è la fine, se ti prende, anche se non vede che c'è.